Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Era speranzoso, era un uomo che aveva anche grande fiducia nelle istituzioni, nel popolo italiano, nella possibilità, Giovanni Falcone, davvero di sconfiggere un giorno la mafia. Diciamo che non è sconfitta purtroppo, però sicuramente ha dato un grosso colpo Falcone alle organizzazioni mafiose e sicuramente grazie a lui e ad altri magistrati dei tempi in cui ci fu Falcone, in primis Borsellino, sappiamo molto di più sulla criminalità organizzata. Sapete che domani ricorre il 25esimo anniversario della strage di Capaci in cui morì Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta. Domani quindi grandi celebrazioni, fiume di studenti per le strade di Palermo, però oggi è stato ricordato anche al CSM, forse con una specie di mea culpa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Poi ne parleremo, così come ci occuperemo fra i vari temi anche del primo tour internazionale di Trump, che oggi era in Israele. Ha parlato di grande collaborazione con Israele e ha lanciato anche un attacco all'Iran dicendo mai permetteremo armi nucleari all'Iran. Insomma, c'è stato un botta e risposta. E poi fra le varie cose ci occuperemo purtroppo anche della morte di Nick Hayden, l'ex pilota di MotoGP, perché vittima dell'incidente i giorni scorsi mentre si allenava in bicicletta è morto oggi, non ce l'ha fatta, così come in gravissime condizioni una triatleta tedesca, sempre anche lei si allenava in bicicletta nelle zone dell'Emilia Romagna. E poi avremo anche per questo tema un esperto di sicurezza stradale che ci spiegherà perché tanti incidenti in bicicletta e come si possono evitare, quali sono i comportamenti virtuosi. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, come sempre vi ricordo anche in questo inizio di settimana di Effetto Notte. E poi c'è sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte. Allora, tanti temi da approfondire, prima di farlo con i vari ospiti il riassunto della giornata. La manovra correttiva, l'Unione Europea promuove l'Italia e raccomanda è necessario reintrodurre l'IMU per i redditi alti, ma su questo Padoan non è d'accordo. Il tour internazionale di Trump, tappa del presidente americano a Tel Aviv, sottolinea il legame fra Stati Uniti e Israele e parla di un'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione. Rai, il consiglio di amministrazione boccia il piano news del direttore generale Campo Dall'Orto, ma lui non molla. Mafia, ancora sangue a Palermo, un boss ucciso in strada alla vigilia del 25esimo della strage di Capaci, ricordata oggi al CSM dal Presidente della Repubblica. Legge elettorale, il PD cerca alleati sul testo base, Di Maio dei 5 Stelle dice siamo aperti, Bersani intanto si schiera contro il voto anticipato a ottobre, dice così aumenta l'IVA. Nick Hayden non ce l'ha fatta, l'ex campione di MotoGP è morto dopo 5 giorni di coma, vittima di un incidente in bicicletta nel Riminese, ed è in condizioni disperate nello stesso ospedale la triatleta tedesca Julia Wilhelmner. Salone del Libro di Torino, affluenza record e si va verso una mediazione con Milano. Partiamo quindi dall'economia con la manovra correttiva chiesta all'Italia da Bruxelles. Via libera questa manovra, ma per Padoan non è una buona idea la reintroduzione dell'IMU per i redditi alti. Ok, la manovra bis, nessuna procedura sugli squilibri macroeconomici, anche se in autunno Bruxelles tornerà a verificare lo stato d'attuazione delle riforme. L'Italia passa dunque l'esame della Commissione europea, anche se resta tra gli stati sotto osservazione. Nelle raccomandazioni paese la Commissione ha dato il via libera alle misure di bilancio addizionali da oltre 3 miliardi prese da Roma e ha aggiunto che non ci sono le condizioni per una procedura per squilibri macroeconomici, squilibri che restano ma che sono rimediabili proseguendo sulla strada delle riforme, anche se nota con preoccupazione l'Europa, gli impegni italiani sono limitati dall'assenza di dettagli sull'adozione delle riforme e dalla mancanza di un calendario d'attuazione. Elevato debito pubblico, lenta crescita della produttività, perdita di competitività, crediti deteriorati nei bilanci bancari, tempi della giustizia civile, queste alcune delle zavorre strutturali di cui soffre il nostro paese. Il faudra assurer aussi Rivaluteremo la conformità col criterio del debito sulla base delle nostre previsioni d'autunno, ha dichiarato il commissario degli affari economici Moscovici, che ha garantito che l'Italia continuerà a godere di un margine di flessibilità purché rispetti i patti. A far discutere è soprattutto la richiesta europea di spostare il carico fiscale dalla produzione a settori meno dannosi per la crescita, di cui la proposta a reintrodurre l'IMU sulla prima casa per i redditi più elevati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Indicazioni quelle che arrivano da Bruxelles, che non possono che far piacere a Palazzo Chigi. Non vengono sottovalutati però i passaggi sui crediti deteriorati, quelli sulla tassazione degli immobili e soprattutto la necessità che il nostro paese prosegua sulla strada delle riforme. Su quest'ultimo punto pesa l'incertezza del mondo politico, con l'esecutivo stretto tra ipotesi di elezioni anticipate e legislatura in scadenza. Quanto all'IMU per i redditi alti, un fermo no arriva dal ministro dell'economia Padoan. È una delle tante proposte, le riforme fiscali vanno viste nel loro insieme e io direi che cambiare idea su una tassa che è stata appena cambiata da pochi mesi non è una buona idea. No a nuove tasse e il ragionamento del governo che minerebbero la ripresa, ripresa che l'Istat rivede intanto al rialzo più 0,1% con un 2017 che si chiuderebbe con un PIL all'1%. Dati questi che per il presidente del Consiglio Gentiloni mandano un messaggio di ottimismo. Infine dalla Commissione Bilancio sia la web tax transitoria e all'emendamento alla manovra che accelera i rimborsi IVA da 90 a 65 giorni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora all'estero con il primo viaggio internazionale di Trump, con la tappa in Israele di oggi, da dove parte anche la polemica a distanza con l'Iran sul nucleare. We have before us a rare opportunity to bring security and stability and peace to this region. Abbiamo l'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione, ma per farlo dobbiamo cooperare. Lo ha detto Donald Trump una volta atterrato a Tel Aviv, seconda tappa dopo Riyadh del suo primo viaggio all'estero da presidente americano. Sono qui per riaffermare il legame indissolubile tra Stati Uniti e Israele, ha detto Trump davanti al premier Netanyahu, il quale ha subito voluto sottolineare che Israele cerca la pace. Quindi Trump ha ribadito che mai USA e Israele concederanno all'Iran di avere un'arma nucleare, parole che hanno indotto il presidente iraniano a negare di averla mai cercata e a chiedere agli USA di smettere di fornire armi ai principali sponsor del terrorismo, riferendosi all'Arabia Saudita. Nella sua giornata in Terra Santa, Trump ha quindi visitato il Muro del Pianto a Gerusalemme, primo presidente americano a farlo in veste ufficiale. Poi, a margine del faccia a faccia con Netanyahu, il presidente USA ai giornalisti ha assicurato di non avere mai menzionato il nome di Israele nel fatidico incontro alla Casa Bianca con il russo Lavrov. Domani Trump incontrerà il presidente palestinese Abu Mazen e in serata partirà per Roma, dove mercoledì incontrerà Papa Francesco accompagnato dalla figlia Ivanka, mentre la moglie Melania visiterà l'ospedale Bambin Gesù. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani Trump arriva in Italia, atterrerà a Fiumicino verso le 18:30, mercoledì sarà in Vaticano, poi incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella in una Roma, come potete immaginare, blindatissima. E adesso il clima teso alla RAI, è stato bocciato il piano di informazione RAI sottoposto al voto del Consiglio di amministrazione dal direttore generale Antonio Campodall'Orto. Favorevole invece il consigliere Guelfo Guelfi, mentre Fortis e Freccero si sono astenuti, contrari tutti gli altri a questo piano dell'informazione di Campodall'Orto, compresa la presidente della RAI Maggioni. Non credo giovi alla RAI un conflitto permanente, una situazione di sostanziale paralisi, ha detto il consigliere Messa, che chiede al direttore generale di trarne le conseguenze. E il Movimento 5 Stelle va all'attacco del PD, dice, col presidente della Vigilanza Fico, che annuncia che sarà chiesta l'acquisizione in commissione del piano news, quello che è stato bocciato, e più tardi, con effetto notte, cercheremo di capire il perché di questa crisi, in cosa consiste esattamente. Siamo alla politica con la legge elettorale, il dibattito si fa sempre più serrato con PD e Forza Italia che trattano. Dal Rosatellum al Nazareno bis il passo è breve, basta andare a votare in autunno. Matteo Renzi lo vuole ed è disposto al nuovo patto con Silvio Berlusconi sulla legge elettorale, sistema tedesco, proporzionale con sbarramento al 5%. E Maria Elena Boschi nega inciuci perché il PD da solo non ha i numeri per approvare la legge elettorale. Domani il gruppo Dem si riunirà a fine seduta per scegliere il Rosatellum, metà proporzionale e metà maggioritario, oppure il sistema tedesco. Angelino Alfano si infuria per lo sbarramento che lo vedrebbe fuori dal Parlamento. Il PD sta facendo alleanze, al di là della maggioranza, ha abbiamo le mani libere. Nemmeno Matteo Salvini della Lega è felice perché vorrebbe il maggioritario e l'alleanza con Berlusconi. Basta però andare a votare a settembre. Per i 5 Stelle la base resta il Legalicum, ma confermano massima apertura, mentre Pierluigi Bersani di MDP attacca: il voto in autunno vuol dire esercizio provvisorio e a gennaio scatta l'IVA. Insomma, il nemico per Renzi sarebbe la legge di stabilità e non quella elettorale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo di mafia. A poche ore dal 25esimo anniversario della strage di Capaci, in cui fu ucciso Falcone con la moglie e la scorta, la mafia è tornata in azione questa mattina a Palermo. Un colpo secco di pistola alla testa con precisione da veri professionisti. Così è morto Giuseppe Dainotti, sorpreso dai killer in via d'Ossuna, nel cuore del quartiere Zisa a Palermo. Così la mafia torna a farsi viva in città, proprio alla vigilia del 25esimo anniversario della strage di Capaci, con un omicidio che è un segnale preciso di assestamento dell'organizzazione in un mandamento, quello di Porta Nuova, da sempre molto importante per Cosa Nostra palermitana. Scarcerato nel 2014 tra le polemiche e l'allarme del questore, Dainotti infatti ritenuto un uomo di peso del clan di Porta Nuova ed è stato in passato il factotum del boss Salvatore Cancemi. Su di lui evidentemente pendeva già una condanna a morte che era stata solo rinviata grazie all'intervento dei carabinieri del nucleo investigativo, i quali avevano registrato subito dopo la sua scarcerazione parecchia fibrillazione attorno al mandamento mafioso di Porta Nuova. Quello fa tragedia, va eliminato, dicevano i mafiosi riferendosi a Dainotti, poi arrestati nel corso di un blitz che ha fermato una serie di omicidi, ma era solo questione di tempo. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E adesso, domani, vi dicevo, ci saranno le celebrazioni appunto per Falcone in Sicilia, la strage di Capaci 25 anni fa. Oggi è stata ricordata a Roma nella riunione del Consiglio Superiore della Magistratura e tra poco, come vi dicevo, ne parliamo. E arriviamo così alla tragedia di Nick Hayden, che è morto all'ospedale Bufalini di Cesena, l'ex campione del mondo di MotoGP. È stato vittima di un incidente in bicicletta nel Riminese. Da mercoledì era in rianimazione per un gravissimo politrauma e una vasta lesione cerebrale. In un video si vede la dinamica dello schianto. Hayden non rispetta lo stop e l'auto lo travolge ed è in condizioni disperate nello stesso ospedale la triatleta tedesca Julia Villener, 31 anni, anche lei investita nel forlivese mentre si allenava, e nei giorni scorsi i medici le hanno amputato le gambe. Le origini della specie umana. Ogni poco viene fuori una scoperta nuova. Il dente di un ominide vissuto 7 milioni di anni fa potrebbe spostare indietro di tempo le lancette dell'evoluzione umana e indicare che le origini degli esseri umani non vanno cercate in Africa, come si riteneva finora, ma lungo le coste orientali del Mediterraneo. Lo indicano due studi pubblicati sulla rivista PLOS ONE dell'Università tedesca di Tubinga e dell'Accademia Bulgara delle Scienze. Fino alla prossima scoperta, viene da dire. Per chiudere parliamo di editoria. Il Salone del Libro di Torino si chiude stasera e si brinda, sfida vinta con Milano. A Torino oltre 140.000 visitatori rispetto ai circa 60.000 di Tempo di Libri. Qualcuno parla di orgoglio sabaudo, altri, guardando ai numeri dell'affluenza, parlano di una partita Torino-Milano finita 2-0. E ora il successo del Salone del Libro torinese tarperà le ali al neonato Tempo di Libri milanese? La questione non è così semplice. Non possiamo ridurre tutto ad uno scontro campanilistico fra due città o fra grandi editori e piccoli. L'AIE, l'Associazione degli Editori, aveva creato la Fiera Milanese perché voleva contare di più nell'organizzazione del Salone. Ora si rimette la palla al centro. Torino ha confermato per l'anno prossimo le date storiche di maggio. Milano aveva intenzione di fare altrettanto, di non fare sconti per il 2018, visto che quest'anno l'infelice data fra Pasqua e il ponte del 25 aprile era frutto di un compromesso. Due fiere nello stesso periodo però non hanno senso. Ma l'AIE non può mollare il colpo. Potrebbe accogliere l'invito del Salone a tornare a Torino, trovando nuovi equilibri. Ma con Fiera Milano c'è un accordo per altri due anni. E allora potrebbe decidere di organizzare la manifestazione milanese in un altro periodo dell'anno. La diplomazia del mondo editoriale è al lavoro. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, dunque questo è il riassunto della giornata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Adesso tra poco cominceremo ad affrontare in particolare alcuni temi con gli ospiti. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. E a questo proposito mi tocca leggere due messaggi. Uno dice, un ascoltatore che non si firma, dice: è morta anche Giulia oggi pomeriggio, la triatleta. Come si fa a dare informazioni sbagliate? Io chiedo a questo ascoltatore, ascoltatrice, come si fa a scrivere messaggi indignati senza prima verificare come stanno le cose? Oggi era stata data la notizia della morte anche dell'atleta tedesca. è in gravissime condizioni, ma al momento è ancora viva, quindi andarsi a guardare le notizie se non si crede a quello che si dice qui, effetto notte. Dopodiché ci sono invece alcuni ascoltatori e ascoltatrici che improvvisamente, come si svegliassero da un lungo torpore e pretendessero di dire che nel mondo non è successo assolutamente niente, come questo ascoltatore che dice: ma della scandalosa legge per l'obbligatorietà dei vaccini, effetto notte, va Istituto Luce, che opinione esprime, oppure non se ne parla? Chissà chi lo sa. Questo ascoltatore probabilmente dormiva venerdì o giovedì, addirittura abbiamo parlato lungamente anche con un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità. Insomma, mi pare che poi avevo messo anche la lista delle vaccinazioni obbligatorie, così come è presentata dal Ministero, sulla pagina di Effetto Notte. Quindi ogni tanto, diciamo così, è un po' un tè, un caffè, così giusto per darsi uno slancio, un po' di lucidità. Molto bene, ci vuole pazienza. A tra poco, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ve l'ho riassunte come sempre all'inizio, le più importanti, poi sapete che ogni tanto vi ricordo i titoli, Roberta Giordano sempre con voi. Cominciamo adesso ad affrontare alcuni argomenti con gli ospiti, che comincerò a salutare tra poco. I vostri messaggi potete continuare tranquillamente a mandarli sulla pagina di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. C'è chi scrive sull'anniversario della strage di Capaci, per esempio Francesco dice: ricordiamo Falcone, ricordiamo pure che si insinuava che la bomba della Dura se la fosse messo da solo e tutti gli altri che l'hanno ostacolato al CSM nel Tribunale dei Veleni. Effettivamente, insomma, oggi forse ricordando, il Consiglio Superiore della Magistratura ha fatto una specie di, dicevo prima, di mea culpa, ne parleremo tra poco. E poi invece chi scrive a proposito dell'incidente, della morte di Aiden, e non solo, dice questo ascoltatore Luca da Milano: cara Roberta, sono un ciclista, la ragione è semplice per gli incidenti, non servono leggi assurde come quelle del metro e mezzo di distanza, una sciocchezza. E invece il più grande nemico di noi ciclisti è lo smartphone, la soluzione è solo una: creare uno strumento da installare sulle auto che obblighi l'automobilista a non staccare entrambe le mani dal volante solo per cambiare marcia, non sarebbe una cosa difficile da realizzare. E tra poco magari, Luca, ne parliamo con un esperto di sicurezza stradale. Adesso però cambiamo argomento, tra pochissimo, se non avete acceso puntualmente alle 21, come capita a qualcuno, allora vi ricordo comunque i fatti principali. Bruxelles dice sì alla manovra correttiva italiana e scontro però sulla reintroduzione dell'IMU per i più ricchi. E poi Trump, che rinsalda l'asse con Israele nella seconda tappa del suo viaggio internazionale, dice: mai l'Iran avrà l'atomica. E poi ancora sangue di mafia a Palermo, un boss ucciso in strada, intanto questo alla vigilia del 25 anni, della celebrazione dei 25 anni per la strage di Capaci, che ricorda Falcone. E poi Rai nella bufera, il consiglio di amministrazione boccia il piano delle informazioni del direttore generale Dall'Orto. E poi cerchiamo di capire un po' cosa sta succedendo. La morte di Nick Hayden, l'ex campione di MotoGP, non ce l'ha fatta, è morto dopo 5 giorni di coma dopo un incidente in bicicletta. Legge elettorale, il PD stringe sull'intesa, forse si riesce a trovare un'intesa tra PD e Forza Italia. E poi l'uomo sarebbe nato, l'essere umano, nei Balcani, non in Africa. Dal dente di un ominide si riscrive la storia, questo dente ritrovato lungo le coste orientali del Mediterraneo. E a proposito di Medio Oriente, parliamo del tour internazionale di Donald Trump, il suo primo viaggio all'estero del presidente americano. Oggi la seconda tappa è stata Israele, una visita particolarmente attesa anche perché tenta di riannodare il negoziato di pace tra israeliani e palestinesi. Il segretario di Stato di Trump, il ministro degli esteri, ha detto oggi che un incontro a tre, quindi con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il capo dell'autorità palestinese Abu Mazen ci sarà, non oggi quindi, ma prossimamente, insomma in data da destinarsi. Con sé naturalmente Trump ha portato uno staff molto ampio, 900 persone oltre alla moglie Melania, c'era anche la figlia Ivanka, il marito della figlia Jared Kushner, che è di famiglia ebrea, ecco, importante il suo ruolo, non solo perché è di famiglia ebrea, ma è considerato un elemento chiave nella relazione tra l'amministrazione di Trump e Israele. Ma ne parliamo con il nostro Ugo Tramballi. Buonasera, Ugo. Buonasera. Ugo, l'importanza quindi di questa visita, in realtà Trump già prima del suo insediamento e durante il suo insediamento aveva sottolineato che avrebbe rinsaldato i rapporti con Israele, no? Beh, durante la campagna elettorale aveva fatto molto di più, aveva promesso che l'ambasciata americana sarebbe stata portata da Tel Aviv a Gerusalemme, aveva detto che avrebbe favorito l'allargamento delle colonie. Kushner, il genero, appartiene a una famiglia che è uno dei principali finanziatori di uno dei peggiori movimenti più radicali, più estremisti, più violenti, movimenti delle colonie. Aveva detto, promesso tante cose, poi come è successo anche per la Cina, come è successo per la NATO, per l'Unione Europea, per tante altre cose, la Presidente ha un po' ricalcato le sue posizioni. Detto questo, anche Donald Trump, come Barack Obama, tutti i Presidenti degli Stati Uniti, quantomeno a partire da Richard Nixon, sogna di riuscire a creare un piano di pace fra israeliani e palestinesi per la nascita di uno Stato palestinese. In realtà difficilmente ci riuscirà, come ci sono riusciti tutti gli altri, perché al di là per quanto amichevoli siano, migliori di quanto non fossero con Barack Obama, che erano a livello zero i rapporti fra Israele e Stati Uniti, non dimentichiamo che Barack Obama e Bibi Netanyahu si detestavano palesemente, non lo nascondevano, a dispetto del fatto che invece Trump abbia un rapporto particolare, il primo viaggio che ha fatto da Presidente nel Medio Oriente l'ha fatto in Israele, mentre Barack Obama andò in Israele solo all'inizio del secondo mandato. Nonostante tutte queste cose, comunque, israeliani e palestinesi non sono pronti a fare lavoro, a fare un buon raccordo. Continua a valere per loro il gioco a somma zero, cioè gli israeliani sempre di più sono convinti che non debba nascere uno Stato palestinese, la maggioranza relativa è sempre più grande, più che la metà del governo attuale di Bibi Netanyahu, la della destra nazionalista e religiosa, non vogliono vedere mai uno Stato palestinese. I palestinesi coltivano ancora la speranza di poter fare uno Stato binazionale, che non succederà, che non accadrà mai. Caspita, sei estremamente pessimista, ma mi sembri anche molto realistico, no? Si aspetta da così tanti anni che dici potrebbe non accadere mai. Forse questo è un difetto, quello che da pochi anni seguo questa vicenda, quindi ho visto troppe delusioni, ho visto troppi fallimenti. No, forse magari è una prospettiva sbagliata. Magari non è detto che Bibi Netanyahu, che Donald Trump, lapsus freudiano, perché i due personaggi come populismo si assomigliano molto, che Donald Trump, essendo una persona solo un fresh man, assolutamente impreparato ad affrontare, non è un politico ad affrontare questi problemi. L'Università di Cornell ha stabilito che una persona incompetente è così incompetente da non capire la sua incompetenza, e questo potrebbe adattarsi benissimo a Donald Trump. Non è detto che invece magari appunto un freshman riesca a creare qualcosa di straordinario, ma qui il problema non è, il punto non è il Presidente degli Stati Uniti, il punto sono israeliani e palestinesi che continuano a fare il gioco di cui parlavo prima. Chiaro. Grazie Ugo Tramballi, ciao Ugo. E ricordo, ciao Ugo, ricordo tra l'altro che domani pomeriggio, come vi dicevo, Donald Trump atterrerà a Roma, a Fiumicino, intorno alle 18.30. Il giorno dopo ci sarà l'incontro col Papa e poi col Presidente della Repubblica Mattarella. Ora invece spostiamoci sull'altro tema. Domani 23 maggio è il 25esimo anniversario della strage di Capaci, in cui fu ucciso il magistrato per antonomasia Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla scorta, con il tritolo messo dai mafiosi per uccidere l'uomo senza il quale probabilmente, insieme a pochissimi altri suoi colleghi di quel tempo, in primis Borsellino, non sapremmo nulla della mafia. Una strage che è stata ricordata oggi dal Consiglio Superiore della Magistratura alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Vogliamo sentire questo passaggio? La rievocazione della figura di Giovanni Falcone e con lui di Francesca Morvillo e degli agenti di polizia uccisi con loro diceva che la mafia non è affatto invincibile e che occorre piuttosto rendersi conto che si tratta di un fenomeno terribilmente serio e molto grave. Aggiungeva che si può vincere non pretendendo l'eroismo dei vermi cittadini, ma impegnando tutte le forze migliori della società. Come interprete e capofila di queste energie migliori, ha svolto con coraggio e con determinazione la sua opera. Era infatti convinto, come ebbe a scrivere, che perché una società vada bene basta che ognuno faccia il suo dovere. E già, come sentivate prima, no? In questo ricordo cui ho aperto questa sera Effetto Note, va ricordato, e saluto in questo Raffaella Calandra, la nostra Raffaella Calandra. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Che Falcone si era trasferito a Roma da Palermo per lavorare al Ministero della Giustizia, era stato un po' costretto a lasciare la Procura di Palermo perché era stato ostacolato a più riprese, lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura l'aveva un po' umiliato scegliendo un altro al suo posto, a capo del pool antimafia, no Raffaella? Falcone è stato uno dei magistrati più ostacolati e criticati in vita per essere poi omaggiato e diventato un simbolo in morte. E l'importanza di queste celebrazioni di oggi all'interno del Consiglio Superiore di Magistratura a Palazzo Marescialli, alla presenza del Capo dello Stato che lo presiede, è proprio quella di una sorta di risarcimento tardivo, perché il CSM, pubblicando anche oggi e desecretando gli atti dei propri provvedimenti, delle proprie anche istruttorie interne per la nomina nei vari uffici, in qualche modo compie e rende pubblico anche quegli errori che sono stati fatti soprattutto nei confronti di Giovanni Falcone e che hanno contribuito, per dirla con la sorella Maria Falcone, a iniziare a farlo morire molto prima, ossia quando a posto suo fu scelto come capo dell'ufficio istruzione come giudice istruttore di Palermo, appunto, un ignoto magistrato, Antonino Melli, che allora dirigeva la procura di Caltanissetta, preferito per questioni di anzianità piuttosto che per meriti quelli di Falcone. E leggere oggi questi verbali, laddove ad esempio proprio da quel verbale leggo che scrivono i magistrati che anche se era efficace l'azione, la visione culturale profonda, la conoscenza profonda del fenomeno che Falcone aveva, non si poteva far prevalere questa motivazione rispetto ai 16 anni di anzianità dell'altro candidato. Cioè leggere oggi questi atti, così come leggere anche l'audizione di Falcone che fu costretto ad andare davanti al CSM per giustificarsi di un'accusa gravissima che gli fu mossa, ossia quella di tenere nel cassetto degli atti che riguardavano un livello politico di connivenze con la mafia e di non tirarli fuori o di tirarli fuori soltanto a seconda delle convenienze politiche, un'infamia terribile, e dover appunto leggere questi atti con anche la difesa che il magistrato che in quel momento viveva blindato più di tutti dovette rendere davanti ai suoi stessi colleghi è oggi forse un tardivo risarcimento nel senso di trasparenza, ma fa ancora più male proprio perché mostra con l'evidenza delle parole e degli atti anche quanto ostacolato sia stato il suo percorso per poi essere invece attuato in pieno subito dopo la sua morte, perché dopo quella terribile stagione del 92 tutto quello che Falcone aveva progettato nella costituzione dell'impalcatura antimafia, quindi la creazione di una procura nazionale antimafia, della direzione investigativa antimafia, del coordinamento delle notizie, è diventato una realtà e costituisce oggi, come ha ricordato anche appunto sia il Capo dello Stato sia il Presidente del Senato Grasso, che ricordiamolo era il giudice al latere del maxi processo, l'architrave su cui poggia appunto oggi l'antimafia. Per cui il senso di questa giornata sta soprattutto nell'atto in sé e in questa decisione di voler rendere pubblici questi verbali che invito anche tutti i nostri ascoltatori ad andarsi a leggere anche sul sito del CSM, perché sono un passaggio della storia italiana così drammatica che è bene che tutti conoscano anche proprio direttamente dalle fonti dirette. Un'ottima esortazione Raffaella. C'è Andrea che scrive: nel paese, nella magistratura, nel potere, quale ne sia il segno politico, hanno saputo accettare le idee di Falcone, in vita è più che comprendere in morte, se ne appropriano a piene mani deformandole secondo la convenienza del momento. Poi un ascoltatore, Claudio da Milano, che dice: scusami Roberta, ma che razza di nazione è quella che non riesce a proteggere Falcone e Borsellino saltati in aria? La cosa abbastanza generalizzata. Una stagione particolare, però questo ha a che fare con un aspetto che 25 anni dopo resta ancora del tutto non del tutto chiarito, del tutto che se quella di Falcone è stata una strage messa in atto da Cosa Nostra, sappiamo perfettamente chi portò il tritolo, sappiamo perfettamente chi premette il pulsante, però del qualche telecomando, deviazione potrebbe esserci stata, restano qualche... degli aspetti diciamo non ancora chiariti, su cui tuttora la procura di Caltanissetta sta indagando, su questa come sulla strage di Via D'Amelio, ma i processi si fanno con le prove, per cui diciamo chiaro, bisogna avere gli elementi tali per poter suffragare ipotesi e diciamo idee diciamo. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Raffaella. Intanto vedo i vostri messaggi ancora su questo tema. C'è Max Taxi che dice: omaggio a Falcone e Borsellino, ipocrisia di uno Stato corrotto, colluso ed in parte mafioso. E poi sempre i nostri cuori, dice, vari messaggi, devo dire che ricordano Falcone, anche Borsellino, che poi è stato ucciso circa 2 mesi dopo. Falcone dice: uno degli eroi della nostra Repubblica, scrive Gaetano, molto rispetto e onore alla memoria sua e degli altri che come lui hanno davvero amato questo paese. Ci sentiamo tra pochissimo, sempre i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo il filo delle notizie, tante ve ne ho raccontate finora, riassunte come sempre all'inizio. Ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, anche se ogni tanto poi ve li ricordo, i titoli principali. E poi abbiamo parlato del primo viaggio internazionale, primo viaggio all'estero di Trump, oggi era la seconda tappa in Israele, e abbiamo parlato del ricordo di Falcone, domani 25esimo anniversario della strage di Capaci, e di questa cerimonia oggi al Consiglio Superiore della Magistratura, che insomma in quegli anni lo aveva anche in qualche modo ostacolato o comunque umiliato scegliendo un altro al posto suo. Ne abbiamo parlato diffusamente adesso invece ci spostiamo su un altro tema che parte dalla vicenda tragica dell'ex campione di MotoGP Nick Hayden, per capire anche come ci si può comportare diciamo virtuosamente per evitare questa strage di ciclisti, donne e uomini che vanno in bicicletta o per allenamento o per altri motivi e che poi insomma veramente in gran numero purtroppo diciamo rimangono vittime della strada. Intanto però, se non avete acceso puntualmente, vi ricordo i titoli principali, eccoli qua. La manovra correttiva, l'Unione Europea promuove l'Italia e raccomanda è necessario reintrodurre l'IMU sulla prima casa per i redditi più alti, ma su questo Padoan non è d'accordo. E poi il tour internazionale di Trump, di cui abbiamo parlato, oggi era Tel Aviv e ha detto un'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione e ha rinsaldato i legami tra Stati Uniti e Israele. Rai, il Consiglio di amministrazione boccia il piano news, il piano dell'informazione del direttore generale Campo Dall'Orto, ma lui non molla. Mafia, ancora sangue a Palermo, un boss ucciso in strada, uscito dopo praticamente 30 anni di galera, alla vigilia del 25 anni della strage di Capaci, ricordata oggi al CSM. E poi la legge elettorale, con questa ricerca di un accordo tra il PD e Forza Italia sul testo base, e il Salone del Libro di Torino, con un'affluenza record, ora si va verso una mediazione con Milano. Quindi dicevamo, la tragedia di due campioni uniti da un terribile destino simile, entrambi falciati in bicicletta in Emilia-Romagna nei giorni scorsi, tutti e due ricoverati all'ospedale Bufalini di Cesena. Oggi Nicky Hayden, ex campione del mondo di MotoGP, non ce l'ha fatta ed è morto dopo diversi giorni in cui era in coma. E la triatleta tedesca Julia Wilhelmer, che è in gravi condizioni, 31enne, gli sono state amputate anche le gambe nei giorni scorsi, insomma in condizioni disperate. Ne parliamo con Dario Ricci, il nostro Dario Ricci che è qui presente. Ciao, studio. Ciao Roberta, ciao, buonasera a tutti. Ci ricordi anche un po' così un profilo di Kentucky Kid, Nicky Hayden, campione del mondo come ricordavi nel 2006 quando a Valencia proprio nell'ultima gara beffò quel Valentino Rossi che poi di lì a poco sarebbe stato suo compagno in Ducati, in due stagioni certo amare e avare di soddisfazioni per il dottore, tant'è che proprio Rossi lo aveva ricordato in questi giorni. Ricordiamo l'incidente di mercoledì scorso, l'incidente di Hayden e nell'immediata vigilia del Gran Premio di Le Mans, e Rossi lo aveva ricordato con parole affettuose e commosse. Hayden poi appunto aveva vinto quel mondiale sulla Honda, aveva guidato anche la Ducati, poi da un paio di stagioni era sceso in passato, perché poi la Superbike sicuramente grande appeal sugli appassionati, anche se poi quel 2006 era rimasto il vertice, certo, della sua carriera. E poi devo dire che la notizia un po' del giorno, ricordando anche che ahimè sono ore difficili e drammatiche al Bufalini di Cesena, perché è ricoverato anche Simone Mazzola, un pilota italiano che nei giorni scorsi ha avuto un grave incidente sul circuito di Misano, questa volta non in bicicletta ma anche lui in gravi condizioni, quindi veramente facciamo il tifo per Simone. Però l'elemento nuovo di queste ore, che proprio era stato reso noto poco prima la morte di Hayden, è questo video che è stato ripreso da una delle telecamere di vigilanza vicino all'incrocio dove è avvenuto l'incidente, e che dimostrerebbe che Hayden, che era in bici, non si è fermato allo stop. E quindi adesso è stato acquisito dalla procura questo video, e gli inquirenti vogliono valutare anche la velocità di questa Peugeot, che sembra però essere nei limiti, e anche se eventualmente il pilota è stato distratto dall'iPod. Ecco, questo a proposito, diceva un ascoltatore prima che secondo lui la soluzione per evitare questa mattanza sarebbe quella di evitare smartphone, di mettere dei dispositivi nelle macchine che impediscano, tranne che per cambiare la marcia a chi guida, di staccare le mani dal volante. Poi ci sono tanti messaggi su questo tema, per esempio... Geppe dice: colgo l'occasione funesta degli incidenti accaduti ai due sportivi per chiedere di informare che in Italia le piste ciclabili sono ancora pochissime, quindi è più pericoloso che all'estero avventurarsi in bici. Poi un altro messaggio: da ciclista constato che gli incidenti non sono dovuti solo alla disattenzione degli automobilisti, ma soprattutto, apro questo WhatsApp, soprattutto dal comportamento inadeguato degli stessi ciclisti, sì, scrive Marco. Si sovrappongono un po' questi le bad practice, mi viene da dire, perché incidenti come questi ci ricordano che ognuno ha una parte di responsabilità. Chiaramente il ciclista spesso è quello che corre i maggiori rischi, perché e quindi deve stare più attento. Osvaldo da Besati dice: abito nel Milanese, sulle mie strade corrono i ciclisti amatoriali, purtroppo è un dato che non rispettano gli incroci. Se il primo del gruppo passa col semaforo verde, gli altri lo seguono anche con il rosso. Davanti a casa mia ogni anno almeno uno finisce all'ospedale per questo. Allora, a questo punto coinvolgo Giordano Biserni, che è presidente dell'ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. Biserni, buonasera. Bisogna, eccoci qua. Siamo qua. Quindi ha sentito la ricostruzione, insomma, diciamo, i commenti anche degli ascoltatori. Come si possono evitare? Lei oggi, quando l'ho chiamata così molto velocemente, mi ha fatto un numero, una metafora di quanti muoiono all'anno, no? Di persone, sì, che vanno in bicicletta. Sì, la utilizzo spesso anche negli incontri nelle scuole, quando vado a parlare ai ragazzi. 251 morti lo scorso anno, anche se in calo il numero di ciclisti, in calo vuol dire che comunque negli ultimi 10 anni sono morti quasi 3.000 ciclisti sulle strade italiane. 251 è come praticamente un gruppo abbondante, dell'origine potrà confermare, del Giro d'Italia, che parte il 1° gennaio dell'anno, e di questi corridori molto comuni e alcuni non molto famosi nessuno arriva al traguardo, anzi ne vogliono alcuni anche in più. Al 31 di dicembre scompaiono. Questo è purtroppo il risultato della strada, tanto per rendere chiaro di cosa si tratta. Sentivo prima parlare di violazione, le cuffie, eccetera, il sistema di istruzione. Il sistema di istruzione oggi è tale che va a implicare due figure, spesso sono il conducente dell'autovettura, ma lo stesso ciclista oppure il pedone. Questa è una società nella quale due distratti possono andare a collidere. Io non so, circola anche una voce sul fatto che potesse aver utilizzato il campione le cuffiette, la musica, quindi. Non lo sappiamo, però rimane il fatto che molti le usano. Allora ricordiamo che sono assolutamente vietate, molto essere vietate, il buon senso, perché l'utilizzo delle cuffie, cari ragazzi, specialmente i giovani, anche quando vanno a scuola la mattina, ne vedo tanti, vi isola dal mondo, certo. Non sentite rumore, una sirena, l'arrivo di una vettura, questo è estremamente grave. E voglio dire, qui non vogliamo fare il processo alle biciclette, vorrei partire dicendo che le biciclette sono il mezzo più mite della strada in assoluto, non consumano, non inquinano, non fanno rumore, sono ecologiche e quindi in generale, sono ecologiche, quindi ogni bicicletta in più, specie nei giorni nella nostra città, io parlo dalla Romagna, le immagini cosa vuol dire bicicletta, no? La bicicletta si inizia a usare a anni 1, si finisce ad anni 101, perché i nostri anziani sulle strade, a volte, come faceva mio padre, andava in giro a 85 anni, portava la bicicletta a mano e diceva, ma scusa, ma cosa ci fai? Capirai, la bicicletta serve anche per appoggiarsi, mi diceva, non solo per pedalare, ed è vero. Quindi ogni bicicletta in più, comunque, sulla strada è una macchina in meno. Però è anche vero quello che ha detto molti ascoltatori, qua c'è anche una violazione sistematica delle regole da parte di molti ciclisti. Basta andare in giro in una città e ve ne accorgete che, per esempio, il divieto d'accesso vale per tutti, tranne che per i ciclisti. Lo so, quando si è in bicicletta si sente più liberi, lo dico anche in prima persona. Più liberi, ma purtroppo non è così. Lo stesso uso del cellulare, molti ce lo domandano. Il uso del cellulare in bicicletta è vietato, non perdi punti. Addirittura la bicicletta, pensi, Roberta, è l'unico veicolo che avrebbe due sanzioni. Sa perché? Perché l'uso del cellulare è vietato al ciclista quale conducente. Poi la domanda che ci dobbiamo fare, e facciamo così un po' da tecnici, mi permetto, 30 anni di polizia stradale, qualcosa mi è rimasto, certo. Puoi guidare la bicicletta con una mano? La risposta è sì, purché l'altra sia libera. Se l'altra non è libera perché usi il cellulare o perché hai la borsa della spesa, non puoi guidare con una mano. Nel momento in cui devi frenare, in cui devi prendere la situazione in mano, chiaramente sarà. Addirittura, però, se la polizia municipale o la strada comincia a sanzionare questo tipo di violazioni, ecco che purtroppo una parte della stampa si scatena, cioè, come se non avessero altro che fare. È difficile fare il mestiere in divisa oggi, mi creda, perché se non lo fai dopo che succedono episodi come questo e tanti altri, li violano continuamente. Per esempio, l'uso delle piste, diceva prima Dario Ricci, parlavamo delle piste ciclabili, ce ne sono, e quelle che ci sono, certo, potrebbero essere molte di più, ma spesso non vengono utilizzate, perché non è che basta vestirsi alla Vincenzo Nibali per dire io sono esentato, per fare un esempio. Lei provi ad andare a dire a un gruppo di ciclisti laddove c'è una pista ciclabile a fianco di una strada di usarla. Lei prende dei pacchi di vaffa. Si sentono sminuiti in qualche modo. Ma non solo da loro, ma anche il comune ciclista. Io vedo qui a Forlì, dove parlo, hanno rifatto una ciclabile, l'hanno rinnovata adesso in un viale di scorrimento. Però vedo ancora tanti anziani, meno anziani, che comunque non la praticano, vanno sulla strada senza rendersi conto del rischio. È vero. Bisogna, vuole dire una cosa a Dario Ricci? Se riesci a sintetizzarci proprio quali possono essere i rimedi più immediati da attuare? Ma guardi, i più immediati da attuare sono semplicemente soliti. Grande comunicazione e informazione sui rischi vecchi e nuovi. I vecchi, il mancato uso delle piste ciclabili, certamente la violazione sistematica, ma soprattutto non aggiungere questo benedetto strumento delle cuffie e dell'uso del cellulare, perché veramente va a aumentare una condizione di rischio intollerabile. Poi, ovviamente, oltre le piste ciclabili, che vanno sicuramente ampliate laddove è possibile, spendendo bene questi soldi, perché servono veramente e sono assolutamente necessarie. Oltre a questo, ovviamente, l'intervento anche delle forze di polizia, laddove la violazione è evidente, bisogna ricordare al ciclista che è un utente della strada, è come un tutti conducente. Gli altri, come diceva questo prima. Non avviene. È come con i pedoni, sa? Quando il pedone è sulle strisce pedonali, io vorrei vedere qualche volta qualche agente che lo ricorda, noi automobilisti che non ci fermiamo, non è una concessione, per esempio quella che facciamo al pedone sulle strisce, un diritto. È proprio un'abitudine comune, è ormai un atteggiamento, un abito mentale. Dottor Biserni, Giuliano Biserni, io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro, buona continuazione. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Buona grazie. Serata. Ciao Dario Ricci, noi ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Siamo in supercorsa, però vorrei chiedere al nostro Andrea Biondi del Sole 24 Ore che succede in Rai, questa sfiducia di fatto nei confronti del direttore generale Campo Dall'Orto. Andrea? Ciao, buonasera a voi. Beh, insomma, alla fine è successo quello che ormai si attendeva da settimane, cioè è esplosa quella che in effetti è una crisi strisciante da mesi all'interno del vertice aziendale della RAI, con la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione, compreso il presidente Monica Maggioni, che ha votato contro il piano delle news presentato dal direttore generale Antonio Campodall'Orto. Questa insomma è l'ultimo segnale di una crisi che effettivamente sta colpendo il vertice RAI, con il direttore generale che sembra sempre di più messo in una posizione di minoranza, di debolezza. È la terza volta che il DG si trova a dover fare i conti con una maggioranza mancante in consiglio, e questa è una cosa che sicuramente non depone bene per una RAI che, diciamo, è andata bene nel 2016 a livello di ascolti, è andata bene anche dal punto di vista dei conti con un bilancio chiuso in utile, anche se grazie a un grosso intervento da parte del canone in bolletta. E infatti questa è una, per dire, delle cose che viene rimproverata a Campodall'Orto, cioè il fatto di non avere fatto una giusta efficienza, nella misura in cui i conti in utile sono stati molto, quell'utile è stato molto inferiore rispetto anche all'iniezione di risorse che è arrivato dal canone in bolletta. Comunque alla fine questo è un momento di grossa difficoltà per la RAI, che si trova a dover varare i palinsesti che saranno presentati agli investitori pubblicitari a fine giugno, e quindi insomma bisognerà effettivamente vedere come si comporrà questa crisi tra Campodall'Orto e i suoi consiglieri d'amministrazione. Momento complesso per la RAI. Grazie Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Alle 22 ci sentiamo.